invece. Ok, sappiamo tutti quanti che Sciuletti vuole strofe, canne e figa, roba originale, voi scontati come ste due righe. 3, 2, 1, parto in ritardo, conto la rovescia, tasche creme, rovescia lo sguardo. È vero che sono uno scanso, che non porto mai rispetto, e se mi guardi e ti rivedi è che ero ebana specchio. Ormai da troppo che rifletto sui problemi di sto mondo, quando poi mi guardo intorno e sono l'unico a farlo. Quando vado in tela a dirlo, dopo rischio le manette, che la parte più cristiana del clero sono le sue sette. Sono sfigato che poi mette, registrava su cassette, parlando di manette. E di buste sospette il fatto è che mi piace fare late. Da quando nasce ha scritto il manuale del backpacker. Disprezzo il mio stesso lavoro come mi incita la gente. E in 180 strofe scritte non c'è un tema decente. Siamo fottutamente hater, Shura, Jess e Tony, finti guru senza primo, tutti fuori dai coglioni. Siamo fottutamente hater, Shura, Jess e Tony, finti guru senza primo, tutti sopra i miei coglioni. E già, e questa va a tutta quella gente che parla sempre di cose di cui non sa niente. Noi invece siamo sempre fuori dal gioco, attenta a non scottarti, stai scherzando col fuoco. Eccoci qua, due diverse generazioni, uno intende a far su cannoni, l'altro a disintossicarsi i polmoni. Resta il fatto che se tu ci azioni ci sbagliamo dei viaggioni che spingono sempre più in alto le nostre prestazioni. E chiedi a Tony se la storia non è questa, bastano due rime per portarti un po' di tempesta. Prendi quello che ti resta e scappa come un clandestino, non percorrere strade che vanno da Imperia a Torino. Smetti di atteggiarti e convincerti di essere fico, se la sera vai nel letto e ti ciuccia ancora il dito. Se hai le orecchie per sentire, puoi capire ciò che dico. Ha sempre avuto vita breve ogni stronzo che ci ha tradito. Dal consumato jazz fino al giovane Shula, stai sbagliando se pensi di essere quello che ci incula. Allaccia pure la cintura per sto viaggio da paura. Se non ti va l'andatura, gremati un po' di natura, perché noi non rallentiamo, non è mai una storia statica. Se vogliamo rilassarci ci fumiamo la Giamaica. E anche quando siamo pezzati come un pane già si sbanda. Non esiste alcun problema, ci svampiamo anche l'Olanda. Poi scriviamo dei deliri, metriche fuori dal mondo. Provo un po' a farne due tiri e gustarti questo suono, fatto di misture fresche e di buone sano hip hop. 24 ore al giorno noi non conosciamo stop. Siamo fottutamente hater, Shura, Jess e Tony, finti guru senza primo, tutti fuori dai coglioni. Siamo fottutamente hater, Shura, Jess e Tony, finti guru senza primo, tutti sopra i miei coglioni. E già, e questa va a tutta quella gente che parla sempre di cose di cui non sa niente. Noi invece siamo sempre fuori dal gioco, attenta a non scottarti, stai scherzando col fuoco. 1, 2, 3, preparati alla bomba che sta per colpire te. 3, 2, 1, già Shula e Tony, dopo questa non ce n'è per nessuno. Percorro queste strade che non sono d'Imperia. Portiamo la provincia a testa alta, qui la storia si fa seria. Qui non si parla di gente con cui non ho che fare. Troppo facile postare, non agire, criticare. Vengo dal nulla e dal nulla tornerò. Per questo non mi incazzerò per ciò che sentirò. Le tue sono parole, i miei sono pezzi che ti do. Quando l'avrai capito sarai già stato di shock. Strizzatene da un po', solo per assaggiare. Così ti passa dalla mente voglia di parlare. Botta che da pare, ti sei. Sento già mi pare, un ghigno dalla bocca mi sta uscendo, compare. Non ci fermi più. Col cazzo.